100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Una settimana turbolenta per i mercati, quella che ci lasciamo alle spalle. La Grecia ancora una volta ha provocato fortissime tensioni sui listini azionari e sulle quotazioni obbligazionarie, in particolare a metà settimana, quando è tornato ad acuirsi lo scontro fra il governo Tsipras e gli esponenti della Troica. Oggi sulle vicende greche la palla ripassa all'Eurogruppo, poi si testerà se la Grecia riesce a dare garanzie sufficienti nei confronti dei creditori internazionali. Proprio domani la Grecia deve rimborsare 750 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale. Sempre sul fronte internazionale, due gli appuntamenti al centro delle attenzioni. Intanto le elezioni britanniche, che hanno registrato la netta vittoria dei conservatori, evitando così lo stallo politico che viene sempre temuto dal mercato. E con i risultati elettorali è arrivato il generale apprezzamento della sterlina nei confronti di tutte le altre valute internazionali. Venerdì poi è stata la volta della disoccupazione americana, un dato molto positivo che ha portato le borse sui massimi. In aprile sono stati creati 223.000 nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione statunitense è sceso al 5,4%. Per quello che riguarda la borsa di Milano, qualche pressione si è scaricata sulle banche perché il riaccendersi delle tensioni sulla Grecia ha allargato nuovamente lo spread, che si è riportato oltre i 140 punti per poi scendere, ma si è comunque portato ai massimi dell'anno. Sono arrivate moltissime trimestrali, tutte di peso, in particolare quelle di venerdì, sono state accolte tutte molto bene dai mercati. A rassegnare i dati sono stati Enel, Unipol Sai e Mediobanca. Oggi tra le big tocca a Intesa San Paolo e Monte dei Paschi. Monte dei Paschi, segnaliamo subito, che è tornata in utile dopo 3 anni di perdite accumulate per oltre 10 miliardi. Nel primo trimestre di quest'anno la banca registra un utile netto di 72 milioni di euro. I temi da monitorare in settimana: la Banca Centrale Europea pubblica i verbali della riunione del 15 aprile, Draghi parla al Fondo Monetario Internazionale, arriva il dato sul PIL dell'Eurozona del primo trimestre, la produzione industriale europea di marzo e poi l'inflazione italiana di aprile. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Dall'INPS arrivano segnali incoraggianti sul fronte del lavoro. Sulla base dei dati che oggi ha fornito l'Istituto di Previdenza, nei primi 3 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2014 sono aumentati nuovi posti di lavoro. Sono stati attivati oltre 1.330.000 contratti, ne sono cessati poco più di 1 milione, quindi il saldo positivo è stato di 320.000 posti in più. Si tratta di un'indicazione significativa perché durante tutto il 2014 il saldo positivo era stato di 134.000 unità, quindi meno della metà rispetto al dato attuale. L'altro elemento importante è che in questo primo scorcio di 2015 sono cresciute soprattutto le assunzioni a tempo indeterminato, quindi posti stabili sia come nuovi contratti sia come trasformazioni di contratti a termine. Complessivamente queste assunzioni stabili sono state oltre 470.000, 91.000 in più del 2014. Allo stesso tempo sono diminuite le assunzioni a termine. Allora, questo andamento dell'occupazione non è ancora legato al nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti che si può stipulare solo dall'8 marzo, quindi diciamo un periodo non ancora osservato interamente dai dati dell'INPS. Si tratta invece degli effetti degli incentivi previsti dalla legge di stabilità, che concede alle aziende che assumono sconti contributivi fino a 8.060 euro all'anno per 3 anni. Due motivi che evidentemente hanno spinto le imprese a preferire i contratti a tempo indeterminato ad altre modalità di assunzioni. Servirà però ancora un po' di tempo per capire quali saranno i veri effetti del Jobs Act. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.